Platone, Repubblica, libro terzo. Ecco dunque, pressa poco si capisce, i nostri assiomi sulla divinità. Dimostriamo così che cosa potranno udire e cosa udire non potranno, sin dalla prima infanzia, uomini destinati a diventare rispettosi degli dèi e dei genitori, destinati poi a coltivare e ad apprezzare l'amicizia. Sì, rispondeva, e le nostre conclusioni, credo, sono esatte. Ma se dovranno diventare anche forti e valorosi, cosa si dovrà fare? Non credi che bisognerà trattare argomenti che non incutano il terrore di morte? Ma credi forse che si possa diventare valorosi quando si nutre in se stessi questo timore? Disse lui, non lo credo. E si potrà essere immune da terrore di fronte alla morte. Si potrà in battaglia preferire alla sconfitta e alla servitù la morte, quando si crede che vi sia l'Ade e che davvero terribile sorte ivi ci attenda. Per nessun motivo. Bisogna dunque, pare evidente, formulare qualche direttiva anche a chi deve fare uso di questi racconti e di queste leggende, e bisogna rivolger preghiera perché gli autori non continuino a porre in cattiva luce, così a cuor leggero, la sorte di chi sta nell'Ade. Ne dicano piuttosto le lodi e la esaltino. Oh, noi siamo convinti che quanto oggi s'afferma non è vero e non è utile per chi deve diventare un uomo di guerra. Certo, rispondeva. Cancelleremo dunque, cominciando da questi, tutti i versi del genere. Vorrei, bifolco essendo, far vita da servo ad un altro, presso ad un uomo miserrimo, nulla mai possedendo, più che dei morti tutti quanti reggere impero. O così apparirebbero case per immortali e mortali, squallide, tenebrose, invise persino agli dèi. E inoltre, ahi, davvero persiste pur anche in casa di Ade anima ed ombra, ma certo ormai la mente non hanno. Del resto anche solo assenno, ombre, gli altri s'aggirano intorno. Così pure l'anima a volo, staccata da membra, pervenne giù all'Ade, lamentando il destino, lasciando la vita e il vigore. E anche l'anima sottoterra, qual fumo, ecco svaniva stridendo. Così, come nottole, in antro smisurato nel fondo, stridono, svolano, quando qualcuna giù venga a cadere dalla roccia e dal mucchio ove quelle vicine si stanno. Anime tali stridendo andavano. Rivolgeremo insomma preghiera a Omero e agli altri poeti perché non se la prendano a male se proscriveremo questi versi e altri del genere, non perché poco poetici o sgraditi, ma perché quanto più vivo ne è il carattere poetico, tanto meno li debbono udire fanciulli e uomini destinati un giorno ad esser liberi, timorosi più di servitù che di morte. Hai perfettamente ragione. Così pure rifiutare tutti i nomi che si riferiscono a queste situazioni, nomi terribili e spaventosi, Cocito, Stige, e gli spiriti che stanno sottoterra, e gli spettri senza più succhi vitali e altri mostri, che a pronunciarne il nome producono un brivido in quanti li ascoltano. E forse, trattandosi d'altri casi, va bene così, ma i nostri custodi, provando questo brivido, ci potrebbero riuscire, come ferro troppo ardente, più molli di quanto si conviene. Sì, rispondeva, e giusto sarebbe il nostro timore. Bisogna allora sopprimere tutto ciò. Un criterio opposto dunque a quello che tali parole esprimono dovrà regolare la conversazione, così pure l'opera del poeta. Sì, certo. E allora non sopprimeremo forse lamenti e rimpianti per uomini illustri? Ma certo, rispondeva, dato che abbiamo soppresso anche i precedenti versi. Osserva dunque, dissi, se questa soppressione sarà opportuna. Veniamo a concludere, insomma, che un uomo come si deve non stimerà terribile la morte di chi gli è simile e amico. Sì, concludiamo pure. E allora non innalzerà lamento e pianto per l'amico, quasi che terribile ne sia il destino. No, certo, Ma diciamo anche questo, un simile uomo basta a se stesso per vivere felice, in modo precipuo tra tutti non ha bisogno poi di un altro. È vero, rispondeva. Allora non sarà terribile per lui venir privato d'un figlio, d'un fratello, d'una ricca sostanza e così via? Eh no, affatto. E avrà minima ragione di lamentarsi, bensì, quando sventura lo sorprende, la sopporterà sereno. Sì, particolarmente. Non avremo torto allora nel sopprimere i lamenti funebri per uomini illustri, e li lasceremo piuttosto alle donne, e nemmeno a quante hanno un forte carattere, ad uomini vili piuttosto. Così i giovani che intendiamo educare quali custodi della terra dovranno arrossire comportandosi in questo modo. Va bene, rispondeva. E di nuovo allora faremo preghiera ad Omero e agli altri poeti di non rappresentarci Achille, figlio d'una dea, su d'un fianco giacente una volta ed un'altra di poi resupino e talvolta bocconi. Ma poi ritto in piedi, mentre procede il rabbondo sul lido del mare deserto, e neppure mentre coglie con ambedue le mani la cenere squallida per gettarla sul capo, e tutte quelle lacrime e tutti quei lamenti, e neppure Priamo, per nascita vicino agli dèi, che supplica, raggirandosi tutto nel fango, singolarmente per nome chiamando ciascun compagno. Ma più di tutto interporremo le nostre preghiere perché non si rappresentino mai gli dèi che piangono e dicono: «Sventurata, d'ottimo figlio, madre infelice!» E per gli dèi magari, ma aver l'ardire di rappresentare il Dio più grande in modo così diverso dal giusto e fargli dire: «Oh, dolore, l'amico inseguito d'intorno alla rocca questi miei occhi vedono e tutto il cuore ne piange!» E così, ai ai, quando Sarpedone, a me carissimo amico, sotto Patroclo è destino che muoia. Perché, mio caro amico Adeimanto, se il giovane porge attento orecchio a simili versi e non si mette a ridere come di cosa inopportuna, non ci sarà poi modo che, una volta fatto adulto, ritenga indegni di sé questi sfoghi e venga a provare un senso di rammarico nel caso gli venga in mente di dire o di fare cosa simile. Bensì, per piccole sventure, senza senso di pudore e senza alcun ritegno, si metterà a gemere e a piangere. Ma è proprio vero, rispondeva, e bisogna evitare in ogni modo questo. Così Parola ne ha fatto dimostrazione, e a questa dimostrazione è necessario credere, sino al momento in cui Parola non ci persuada con altra più perfetta. Bisogna evitarlo. D'altra parte, nemmeno debbono essere troppo amanti del riso. È un fatto, quando ci si abbandona ad allegria eccessiva, a tale stato d'animo consegue anche violenta reazione. Ne sono convinto, rispondeva. E allora non si deve approvare una rappresentazione poetica di importanti personaggi che ridono senza ritegno, e tantomeno poi se si tratta di dèi. È proprio vero, disse lui. E allora non accoglieremo nemmeno versi come i seguenti di Omero. Inestinguibile riso sorgeva allor tra gli dèi, quando videro Efesto ansimante per casa. Secondo il tuo punto di vista, non accoglieremo tutto ciò. Oh, rispondeva, il mio punto di vista, se proprio così ti piace, del resto, davvero, è cosa da rifiutare. In ogni caso, bisogna tenere nel massimo conto pure la verità. Se, vedi, era esatta la nostra parola poco fa, e agli dèi la menzogna è inutile, se agli uomini invece è cosa utile a guisa di rimedio, pare evidente un simile rimedio bisogna riservarlo ai medici. I profani non ci metteranno mai la mano. Oh, è chiaro, rispondeva. Chi dunque governa uno Stato può mentire con cittadini o nemici avendo di mira il bene dello Stato. Gli altri invece non debbono por mano a sì grave rimedio. Bensì, di fronte a magistrati quali sono i nostri, se un cittadino privato pronuncia menzogna, diremo che si tratta di un errore del tutto uguale, anzi più grave, a quello di chi, ammalato, al suo medico, di chi, praticante esercizi di ginnastica al suo maestro, non dicesse il vero sulle sue condizioni fisiche. Così del resto, durante la navigazione, le condizioni di una nave e dei marinai imbarcati. Se non si facesse nota al nocchiero la condizione reale o nostra o di qualcuno dei nostri compagni. È assolutamente vero, rispondeva. Supponi dunque che nella città tu possa sorprendere a dir menzogna uno tra quanti artefici sono, un profeta o un medico o chi lavora in legname. Tu lo punirai costui perché introduce un costume sovvertitore dello Stato, come di una nave. Sovvertirà ogni cosa, disse lui, se alle parole si aggiungono poi i fatti. Senti allora, i giovani non avranno bisogno di temperanza. Come no? E non sono questi, guardando il comune degli uomini, i casi caratteristici di temperanza? Essere obbedienti ai governanti, governare se stessi in rapporto ai piaceri del bere, dell'amore e del cibo. Mi par di sì. Allora diremo che i seguenti versi vanno benissimo, quelli che in Omero dice Diomede. Ecco, siedi, amico, e bada a quanto ti dico. E così i similianti versi. E venivan, valori spiranti, gli Achei in silenzio, reverenti ai duci. E altri versi del genere. Bene. E senti un po', roba di questo genere? Pieno di vino ed occhio di cane, cuore di cervo. E quanto segue? Ti par forse che vada bene? E così tutte le altre impertinenze che si possono dire in prosa o in verso da parte di privati cittadini verso i loro capi? Non va certo bene. Perché se si ammira la temperanza, non è opportuno che giovani odano queste cose. Certo, se non si bada a tale inconveniente, un po' di diletto possono anche produrre, e questo non è strano. Insomma, a te cosa ne pare? Così, rispondeva. Senti allora, rappresentare in poesia un personaggio sapientissimo, mentre ci viene a dire che gli pare condizione tra tutte migliore, quando pane, carni e vino spumante da coppe dorate, porti il coppiere d'intorno e lo versi per tutte le tazze. Ti par codesto consiglio pratico per insegnare a un giovane la continenza? Così anche, colme le mense pur siano, morire di fame e seguire il destino tra tutte sorti di pianto è più degna. O rappresentare Zeus, il quale, mentre dei e uomini dormono, solo odesto fra tutti, per desiderio d'amore, dimentica con tanta facilità ciò che prima decise. Vede Era, ne rimane stupito, neppure vuole entrare nella sua privata dimora, deciso ad accoppiarsi con lei per terra, e afferma che desiderio di piaceri d'amore lo tiene sì grande quale nemmeno la prima volta quando si incontrarono di nascosto ai genitori. E neppure vale la pena d'ascoltare quando Ares e Afrodite furono incatenati da Efesto per altre ragioni del genere. Eh no, disse lui, non mi sembrano racconti opportuni. Bensì, continuai, se vi sono esempi di moderazione di fronte agli eventi, nella parola e nell'opera d'uomini illustri, ciò conviene certo udire e vederne rappresentazione. Per esempio, sul petto batteva ed al cuore diceva parola. Cuore, sopporta questo, ben altro hai portato più cane. Oh, senza dubbio, rispondeva. E nemmeno far vedere che questi nostri uomini si lasciano corrompere da doni, che sono avidi di denaro, per nessun modo. E non si dovrà cantare che persuadono doni gli dii e doni i sovrani. Così pure non si dovrà approvar Fenice, il precettore d'Achille, quando consiglia il suo discepolo ad accettare doni e a difendere gli Achivi. Senza doni, invece, gli dice di non desistere dall'ira. Del resto non vorremmo concedere, non vorremmo ammettere in Achille particolarmente tanta avidità di denaro, al punto che l'eroe accetta doni da Agamennone, libera il corpo defunto prendendone un riscatto, deciso, in caso contrario, ad opporre un rifiuto. Non è giusto, no, rispondeva, esaltare simili esempi. E non vorrei far grave appunto ad Omero, ma debbo per osservare che è vera e propria impietà riferire quelle sue notizie su Achille, o credere quando altri ce le riferiscono. Così, ad esempio, ciò che l'eroe disse contro Apollo, saetta lontano, tra gli dì il più rovinoso di tutti, male mai fatto, quale vendetta soltanto potessi. E così, rivolto al fiume, che pure era un dio, gli disobbedì ed era pronto a combattere. Così pure, a proposito delle sue chiome consacrate all'altro fiume, egli grida di volerle invece offrire in onore di Patroclo eroe, il quale era morto. Non si deve, insomma, credere che un tale uomo abbia veramente fatto ciò. D'altra parte, si dice che egli abbia trascinato più volte Ettore attorno al sepolcro di Patroclo, che sulla pira dell'amico abbia sgozzato i prigionieri di guerra. Ebbene, tutte queste enormità noi affermeremo che non sono vere. Non faremo credere ai nostri che Achille, figlio di una dea e di Peleo, persona saggia in modo particolare e discendente da Zeus in terzo grado, che Achille, insomma, educato per opera del sapientissimo Chirone, portasse in sé un tale interiore contrasto. Sembrerebbe proprio che egli albergasse due morbi tra sé ripugnanti. Un impulso illiberale accompagnato da avidità di possesso e un senso di superba ribellione di fronte a dei e di fronte ad uomini. Hai perfetta ragione, rispondeva. Allora, dissi, non dobbiamo lasciarci persuadere neppure da altri racconti e non dobbiamo consentire che ci venga narrato che Teseo, figlio di Poseidone, e Pirito, figlio di Zeus, s'accinsero a così violente rapine. E nemmeno che qualche altro figlio di un dio o qualche eroe abbiano osato imprese sì orribili e sì empie, quelle imprese con cui i poeti oggi ne calunniano il ricordo. Ma dobbiamo piuttosto costringerli a dire che le imprese non si riferiscono a questi eroi, oppure che non sono figli di dei. Le due notizie insieme non le dovranno dire in nessun caso. I poeti, insomma, non debbono cercare di persuadere i nostri giovani che gli dèi producono cose cattive e che gli eroi non sono in nulla migliori degli uomini. Lo dissi poco fa. Sono tutte notizie empie e fallaci. L'abbiamo dimostrato, lo ricordi bene. È impossibile che dagli dèi provenga il male. Come no? E del resto sono notizie che recano danno a chi le ascolta. Ognuno, vedi, quando è cattivo, troverà modo di scusare la propria condotta, persuaso com'è che altrettanti misfatti compiono e ne compivano anche quelli agli dei congiunti vicino a Giove, di cui pur sull'Ida l'etere si innalza grande altare, a Giove che ne è padre, e dice ancora, intatto in loro il sangue degli dei. Per tutti questi motivi, bisogna rinunciare a simili racconti perché non producano nei nostri giovani un incentivo al male. Ma senza dubbio, rispondeva. E allora, quale formula per racconti e leggende rimane sospesa, volendo sapere quali si possano e quali non si possano dire? Per gli dèi, l'abbiamo detto or ora, e così pure per i demoni, per gli eroi e per quelli che sono all'Ade. Non v'è dubbio. Non rimane altro se non la formula relativa agli uomini. Certo, impossibile, amico mio, in questo momento almeno, determinarla. Come? Perché, credo, diremo certo che poeti e scrittori sbagliano moltissimo quando a proposito degli uomini affermano che, pur ingiusti, sono felici e giusti, sventurati. Che un'azione ingiusta, se si riesce a tenerla nascosta, può essere utile. Che la giustizia è un bene per conto d'altri, proprio invece è personale danno. È necessario vietare che si trattino argomenti di questo genere e imporre invece racconti con diverso tema, non credi? Oh, davvero, non vedo ragione di dubbio, rispondeva. Allora, se sei d'accordo che io abbia ragione, dovrò pure supporre che tu mi abbia già dato per risolta la tesi che con sì lungo giro stiamo cercando. Perfettamente, rispondeva. Allora i temi da trattare in rapporto all'uomo debbono essere di questo genere, ma ci metteremo definitivamente d'accordo quando avremo trovato chiaramente che cosa sia la giustizia, quando potremo affermare che la giustizia è utile a chi la possiede, tanto se risulti, quanto se non risulti ai nostri simili, che l'uomo è giusto. Verissimo, concludeva. E allora basterà così per i temi da trattare. Ora invece credo si tratta di discutere il modo e la forma della dizione. E così avremo fatto indagine perfetta sugli argomenti che si debbono adoperare e sul modo secondo il quale si debbono adoperare. E Adeimanto allora, ma a questo punto non lo capisco bene. Eppure, risposi, lo devi capire. Forse in ogni caso comprenderai. Non credi che tutti gli argomenti trattati da narratori e da poeti vengano ad essere un'esposizione di fatti trascorsi, presenti o futuri? E che cos'altro? E non compiono forse questa esposizione, vuoi per ignuda narrazione, vuoi per completa mimesi, vuoi per l'uno e per l'altro modo? Ma a questo punto vorrei comprenderlo meglio. Par davvero, dissi, che io sia un maestro ridicolo e oscuro. Così farò come le persone incapaci di parlare. Cercherò di esporre non l'argomento nella sua totalità, ma una parte sola. Per tal modo ti farò vedere il mio pensiero. Dimmi un po', sai il principio dell'Iliade? Il poeta dice che Crisi rivolge ad Agamennone preghiera di liberargli la figlia. L'altro si adira. E Crise, siccome non ottiene il suo intento, prega il suo dio contro gli Achei. Lo so, certo. Allora, sai anche un'altra cosa, che cioè, fino a questi versi, e pregava tutti gli Achei, soprattutto gli Atridi, i due, i sovrani di genti, i fatti sono narrati dal poeta per conto suo. E non c'è nemmeno il tentativo di far sorgere in noi l'impressione che altri possano narrarli. Quanto segue invece è detto da Crise come in persona propria, e Omero cerca in tutti i modi di far sorgere nel lettore la persuasione che chi parla non è Omero, bensì il sacerdote, il quale è vecchio. La restante narrazione, nella sua totalità, è fatta senz'altro in questo modo: le vicende in Ilio, le vicende in Itaca e nell'intera Odissea. Senza dubbio, rispondeva. E si tratta pur sempre di una narrazione, sia quando si riferiscono via via i discorsi, sia anche i fatti in rapporto ai quali vengono inseriti i vari discorsi. Come no? Ma quando riferisce un qualche discorso, come se fosse un'altra persona, non dovremmo dire che il poeta adegua la propria espressione alle singole persone che egli stesso annuncia di voler far parlare? Lo diremo, che c'è di strano? E questo processo di assimilazione di se stesso a un altro, sia nella voce sia nel gesto, non è forse imitazione o mimesi di ciò che si cerca di eguagliare? Va bene, concluse. Entro queste caratteristiche, dunque, Omero e gli altri poeti fanno la narrazione, con un processo cioè imitativo o mimetico. Non c'è dubbio. Supponi ora che il poeta non si tenesse in nessun momento celato. Allora tutta l'esposizione sarebbe compiuta a prescindere da questo processo di mimesi. E siccome non vorrei che tu mi dicessi di non aver capito, ti spiegherò come la cosa possa avvenire. Omero, infatti, ci narra che Crise venne portando il prezzo di liberazione per la figlia, che supplicava gli Achei, in modo poi particolare i re. Se in seguito Omero non si fosse espresso, quasi divenuto egli stesso Crise, ma avesse mantenuto invece la propria individualità, puoi capire benissimo che il prodotto non sarebbe stato più di mimesi, bensì una ignuda narrazione. Così, presso a poco, e ti dirò il racconto senza ritmo, perché non ho abilità di far versi, il sacerdote venne e faceva voti che gli dei concedessero di poter prendere Troia e di salvar la vita, ma pregava che gli liberassero la figlia, dopo aver accettato il prezzo del riscatto, rispettando con ciò la potenza del Dio. Di fronte a queste parole, tutti mantenevano un contegno rispettoso e davano il loro consenso. Agamennone, invece, se la prendeva e gli ordinava d'andarsene e di non ritornar mai più. C'era il caso che lo scettro e le bende del Dio non sarebbero state sufficienti a difenderlo, e disse che, prima di venir liberata, la figlia del sacerdote avrebbe dovuto diventare vecchia d'argo in compagnia di lui, del re. Lo invitava a partirsene e a non suscitare contese, se voleva tornarsene a casa sua illeso. E il vecchio udì il tutto, preso da paura, e se ne partiva in silenzio. Si fece allora in disparte, lungi dall'accampamento dei soldati, e innalzava molte preghiere ad Apollo. Invocava, enumerandoli, gli attributi del Dio, li faceva presenti alla memoria di lui, e supplicava, semmai nel passato innalzandogli i templi e facendogli offerte gli aveva fatto doni graditi, che a compenso di ciò il Dio, per mezzo delle proprie saette, vendicasse sugli Achei le lacrime sue. Eccoti, amico mio, come, senza mimosi, risulta l'ignuda esposizione. Capisco, rispondeva. Puoi anche capire, allora, continuai, che ne risulta l'opposto, anche quando si levino le parti interposte ai discorsi e si lascia soltanto il dialogo. Anche questo, rispose, capisco, è la condizione della tragedia. Giustissimo, dissi, e credo ormai di essere riuscito a spiegarti ciò che prima non mi riusciva. La poesia, insomma, in quanto ha per base un racconto di eventi, si può svolgere interamente per via mimetica. Per esempio, come tu dici, la tragedia e la commedia. D'altra parte, anche per via d'esposizione fatta dallo stesso poeta. E un esempio lo puoi desumere dai ditirambi. Da ultimo vi è un tipo misto, e lo si può trovare nella poesia epica e in altri testi. Oh, capisco, rispondeva, ciò che volevi significare. Ma prima ancora, devi tener presente che si diceva di aver esaurita la trattazione degli argomenti, e che si doveva badare al modo e alla forma della dizione. Ricordo benissimo. Ed era appunto questo che dicevo. Ci dobbiamo insomma accordare in una cosa. Lasceremo che i poeti facciano i loro racconti unicamente per via di mimesi? Oppure taluni argomenti li potranno anche imitare, taluni invece no? E quali saranno nell'un caso e nell'altro? O non dovremo forse nemmeno concederla questa mimesi? Intuisco, rispondeva, che stai indagando se accoglieremo o no nella città tragedia e commedia. Forse, dissi, e forse anche una questione più grossa di questa. Vedi, non so ancor bene, ma dove parola, come soffio conduce, colà si deve andare. Sì, e hai ragione, rispondeva. Sta attento allora a quanto segue, o adeimanto. I nostri custodi debbono o no essere capaci di praticare mimesi? O non consegue piuttosto dalla precedente discussione che ciascuno possa esercitar bene una sola operazione e molte no? Ma, supponendo di por mano a molte attività, in tutte non si riuscirà bene, non certo in modo da poter acquistare una buona fama. Come si può pensare altrimenti? E allora lo stesso principio vale anche per la mimesi. Non è possibile che una medesima persona imiti molte cose, così bene come ne imita una sola. No, certo. Allora non sarà possibile praticare qualche attività importante e insieme imitare molte cose e riuscire un abile mimeta. Del resto, anche due forme di mimesi, che pur sembrano così vicine, non possono essere praticate insieme da un'unica persona. Il medesimo attore non può rappresentare, insomma, tragedia e commedia. E non chiamavi poco fa, appunto, l'una e l'altra due forme di mimesi? Sì, e hai ragione, lo stesso individuo non è pari all'una e all'altra bisogna. Del resto, non si può nemmeno essere rapsodi e attori in un medesimo tempo. È vero. E così nemmeno ci saranno gli stessi attori nella commedia e nella tragedia. Eppure si tratta sempre di mimesi, non credi? Mimesi. E mi pare, anzi, Adeimanto, che l'umana natura sia stata persino divisa in pezzetti più piccoli di questi. Ne consegue che non è adatta a imitar bene molte cose o a rappresentare tutte quelle realtà di cui le singole forme di mimesi sono similitudini. Verissimo, disse lui. In conclusione, se vorremmo mantenere il primiero argomento, che cioè i custodi debbono essere esentati da ogni altra attività di lavoro, quali artefici perfettamente esperti di libertà per la patria, se non debbono nulla esercitare che non cospiri verso questo fine, Da tutto ciò consegue che non debbono fare nient'altro e per conseguenza neppure dedicarsi a questa attività mimetica. E ammesso pure che essi debbano imitare qualche cosa con mimesi, dovranno imitare subito, fin da bimbi, personaggi forti, temperanti, religiosi, liberi e simili caratteri. Invece i caratteri illiberali non li debbono rappresentare e non debbono nemmeno avere abilità in farne mimesi. Insomma, nessuna situazione equivoca. In seguito alla mimesi, non debbono prendere il gusto d'essere realmente ciò che vengono imitando. E non ti sei accorto che quando dalla prima età si continuano ininterrotte queste forme di mimesi e si adducono a un'abitudine, a una natura quasi nel corpo, nell'espressione della voce, nel modo di pensare? Purtroppo, disse lui. Allora, continuai, non concederemo che costoro dei quali diciamo di prenderci cura e intendiamo che diventino persone virilmente buone, si dedichino a rappresentare per mimesi una donna, essi che sono uomini, vecchia o giovane, una donna che litiga con lo sposo, che viene con gli dèi a querela, una donna tronfia di superbia perché si crede felice, nemmeno oppressa da sventure, da lutti, da pianti, e per nessun modo poi ammalata o innamorata o presa dalle doglie del parto. Non v'è dubbio, disse. Già, e nemmeno servi e serve che dimostrano il contegno caratteristico dei servi, nemmeno questo. Già, e nemmeno uomini malvagi e vili, la cui condotta sia opposta a quanto si diceva ora. Gente, cioè, che sparla malignamente e reciprocamente si canzona, che, ubriaca o no, tiene discorsi sconci, che con parole e con gesti è in continuo difetto verso sé o verso gli altri. Del resto, credo, non si deve abituarsi ad imitare con parole o con gesti la gente che è folle. Al contrario, bisogna saper distinguere le persone folli e gli uomini e le donne malvagie, e non far nulla di quanto fanno e nemmeno cercarne oggetto di imitazione. Verissimo, rispondeva. E senti allora, continuai. Si dovrà fare oggetto di mimesi l'opera del fabbro o di altri operai, di rematori in una trireme, del capociurma che li guida. E come, rispondeva, ai custodi non sarà concesso nemmeno rivolger la mente a queste cose. Senti allora, imiteranno cavalli che nitriscono, tori che mugolano, fiumi che strepitano, mare che percuote gli scogli e tuoni e altri fenomeni naturali? Ma no, i nostri custodi non debbono comportarsi come i pazzi, nemmeno da lontano. Allora, sebbene intendo il tuo pensiero, certo c'è un tipo di dizione e un modo di recitare non interdetto a persona per bene, quando gli si presenta necessità di dire qualche cosa. Ma ve n'è pure un altro, dissimile profondamente. Soltanto persona contraria alla prima potrà applicarvisi, perseguendone le caratteristiche per impulso di natura o di educazione. Quali questi due tipi? Domandava. E io? Mi pare che un uomo educato, quando giunge a frase o ad azione proprie ad un uomo per bene, sarà disposto a farne rievocazione, quasi egli fosse l'altra persona. Né certo sentirà disagio facendone oggetto della sua mimesi. Vorrà inoltre imitare la persona onesta e buona nel momento in cui agisce con sicura fermezza e con saggezza. Meno invece e meno sovente quando è abbattuta da morbi o da amorose passioni, o anche da ubriachezza o da altra sventura. Quando invece quest'uomo educato e buono giunge a una parte che non gli si addice, non vorrà certo assimilare se stesso a uno peggiore di sé, ma proverà invece un senso di vergogna. E ciò sia perché è inesperto ad imitare gente di questo genere, sia perché gli riesce sgradito prendere quell'impronta e adeguare se stesso a tipi inferiori, li ha in disprezzo, a meno di farne oggetto di riso. Probabile, rispondeva. In conclusione, si servirà di uno stile simile a quello di cui si diceva poco fa a proposito di Omero. La sua maniera parteciperà dell'uno e dell'altro genere, imitazione e forma narrativa, in modo tuttavia che, in un lungo brano, abbia piccola parte l'azione mimetica. Mi spiego bene? Benissimo. Il dicitore da noi vagheggiato dovrà essere appunto così. Allora, dissi, chi non è fornito di superiori qualità, quanto è meno elevata la sua natura, tanto più accetterà di fare argomento di imitazione qualsiasi soggetto e nulla stimerà indegno di se stesso. In conseguenza, imiterà ogni cosa con tutta serietà di fronte a molti. Ecco, come si diceva, tuoni e fragor di venti e di grandine, e assi di ruote stridenti e voci di trombe, di flauti, di zampogne e di strumenti senza numero. E ancora, latrar di cani, belar di greggi, cantar d'uccelli. La sua dizione sarà insomma interamente espressa con mimesi di tutte le voci di tutti gli aspetti, e avrà la minima parte di narrazione. Anche questa, rispondeva, è necessaria conseguenza. Ecco allora, dissi, i due tipi di dizione cui accennavo. Sì, sono questi. In conseguenza, di questi due tipi, l'uno presenta poche possibilità di variazioni, e quando si arriva a ottenere un giusto tono e un giusto ritmo, una recitazione pur buona può svolgersi in un unico tono e in uniforme cadenza, tanto le variazioni sono di nessun conto, e per il ritmo le condizioni di stabilità sono le stesse. Oh, la cosa è proprio così, rispondeva. E quali invece le caratteristiche del secondo tipo? Certo ha bisogno di condizioni opposte, in quanto ha in sé ogni varietà di mutazione, ogni tono, ogni ritmo, seppur deve esprimersi con giusto modo. Ma senza dubbio è proprio così. E non credi forse che ogni poeta e quanti recitano qualche cosa, tutti debbano incontrarsi o col primo tipo di recitazione, oppure col secondo, o infine con un tipo intermedio? È necessario, rispondeva. Cosa faremo dunque? Continuai. Dovremo accogliere nella nostra città tutti questi tipi, oppure l'uno o l'altro dei tipi misti o quello misto. Se deve aver peso l'opinione mia, rispondeva, quello immisto mi meta d'un'espressione austera. Ma, oh Adeimanto, anche il misto è pur gradito, in particolar modo poi ai bimbi, ai loro precettori e alla massima parte della gente, il tipo contrario di quello che tu stai scegliendo. Sì, graditissimo. Ma forse, osservai, potresti dire che il tipo non si adatta alla costituzione della nostra città, perché da noi non vi è un uomo che faccia per due o per più, ciascuno fa una sola cosa. E già, non va bene. Per conseguenza, in tale città soltanto troveremo il calzolaio che fa il calzolaio e non il nocchiero, oltre che il calzolaio. Così pure l'agricoltore, agricoltore e non giudice, oltre che agricoltore. Il soldato, soldato e non uomo d'affari, oltre che soldato. E così avanti. Vero. Supponi ora, un uomo si presenta da noi, nella città nostra. Un uomo, si capisce, abile e capace di tramutarsi per ogni guisa e di imitare qualunque cosa. Sarà animato da desiderio di prodursi alla nostra presenza lui e le sue poetiche creazioni. Noi allora ci prosterneremo reverenti di fronte a lui, un personaggio sacro, stupefacente e gradito, ma gli diremo anche: oh, non è possibile e nemmeno giusto che un simile personaggio metta radici nella nostra città. Così lo spediremo altrove e gli verseremo sul capo preziosi unguenti e lo incoroneremo di bende lanose. Per conto nostro, intanto, dati i vantaggi che ne derivano, faremo uso dell'altro poeta, quello più austero e meno gradito, uso dell'altro narratore. Egli può infatti imitare la dizione conveniente e austera, così pure recitare secondo quei tipi che inizialmente abbiamo stabilito per legge, quando si poneva mano all'educazione dei soldati. Certo, rispondeva, si potrebbe far così se dipendesse da noi. E adesso, mio caro, conclusi, la trattazione di mosaico ornamento nei discorsi e nei racconti è completamente finita. Abbiamo esposto ciò che si deve e come si deve dire. Sì, pare anche a me, rispondeva. Dunque ora non rimane altro che parlare del canto, del suo accompagnamento e delle relative caratteristiche. Effettivamente, ma chiunque potrebbe trovare gli argomenti opportuni, dato che pur devono essere conformi a quanto si disse in precedenza. E Glaucone sorrise e disse: Allora, Socrate, forse io non sono compreso tra questi. Per il momento non mi riesce di indovinare quali siano questi argomenti. Un po' forse lo immagino. In ogni modo, cominciai, intanto puoi dire che il canto risulta di tre elementi: parole, note musicali, disposte secondo una tonalità e di differente altezza, e ritmo. Sì, rispondeva, questo va bene. E allora, in quanto il canto è un tessuto di parole, non differisce in nulla dalla parola non cantata, se si considera necessità di dire secondo le caratteristiche e le norme di cui ora si fece trattazione. Vero, rispondeva. Del resto, anche la tonalità delle note e il ritmo debbono essere seguaci alla parola. Come no? Si disse in ogni caso che non vogliamo saperne di lamentazioni e di compianti. Già, è vero. E quali sono le tonalità adatte alla lamentazione? Dille, tu hai una buona cultura musicale. La lidia, mister rinforzata, così altre simili. E allora bisogna mettere da parte tutte queste, è vero? Non servono nemmeno alle donne che debbano riuscire come si deve, tantomeno agli uomini. Benissimo. Del resto, la cosa più sconveniente per i custodi è l'ebbrezza, la mollezza e l'inerzia. Come no? E quali tonalità sono molli e adatte ai convivi? Nel modo ionico e lidio, pressappoco si chiamano molli. E ti pare allora, o caro, di potertene servire per uomini di guerra? Eh no, rispondeva. Ma forse la tonalità dorica è quella frigia. Non me ne intendo, dissi. In ogni modo, devi concedere quel tipo che possa imitare le voci e gli accenti di un uomo valoroso in azione di guerra, o in qualsiasi altra, ma pur sempre bellica operazione, d'un uomo che trovi contro se stesso avversa la fortuna, che affronta ferite e morte o qualche altra sciagura, d'un uomo che in tutte queste situazioni, ordinato e forte, combatte contro il destino. E devi lasciarmi anche un'altra tonalità, adatta deve essere a chi si trova in un'azione pacifica, non obbligatoria, bensì volontaria. L'azione cioè di chi persuade altrui di qualche verità, di chi rivolge una prece a Dio, un insegnamento a un uomo o un'ammonizione. Tonalità adatta anche a chi ascolta una domanda, a chi accoglie un insegnamento, a chi si lascia convincere e può mutare la propria opinione, comportandosi per conseguenza razionalmente, senza albagia e senza superbia. Un uomo che temperatamente e misuratamente agisce, ed è tranquillo e sereno per ciò che deriverà dal proprio operare. Lasciami insomma queste due tonalità, una che a forza costringe e una pacata e libera. Esse potranno imitare perfettamente gli accenti di fortuna e disgrazia, di temperanza e valore. Ma, disse lui, si tratta né più né meno di quelle tonalità che ora appunto enumeravo. Allora, conclusi, non richiederemo per il canto e per il suo accompagnamento strumenti ricchi di corde e capaci di molteplici armonie tonali. Evidentemente no, rispondeva. In conseguenza, non dovremo mantenere operai costruttori di arpe triangolari, di arpe congegnate in modo elaborato e di tutti in genere gli strumenti ricchi di corde e adatti a tonalità molteplici. No, è chiaro. E senti allora. Accetterai nella nostra città costruttori e suonatori di flauto? Il flauto non è forse, in ultima analisi, lo strumento più ricco di suoni? Gli strumenti suscettivi di ogni tonale armonia non sono forse imitazione del flauto? È evidente, disse lui. Rimane la lira e la cetra, utili per chi abita in città. Nei campi, invece, sarà ammessa qualche zampogna. Così almeno, rispondeva, parola ne dimostra. Ma, continuai, non è nemmeno una grande novità ciò che si sta facendo, mio caro. Separiamo in questo modo Apollo e gli strumenti musicali a lui propri, di fronte a Marzia e agli strumenti suoi. Disse lui, non mi par certo una grande novità. Insomma, senza accorgerci, abbiamo purificato una seconda volta la città che or ora dicevamo sommersa nel lusso e nella mollezza. Sì, e secondo precetti di saggezza, disse lui. Su via allora, dunque, purifichiamo anche il resto. corollario alla riforma delle tonalità sarà anche una riforma dei ritmi. Non se ne dovranno ricercare né troppo variati né d'ogni misura, bensì si dovranno cercare i ritmi convenienti a una vita ordinata e informata a valore. Una volta che si sia guardato ciò, la quantità delle sillabe e il canto dovranno seguire necessariamente la parola suscettiva di esprimere una tale vita, e la parola non dovrà tener dietro invece alla quantità delle sillabe e al canto. E quali siano questi ritmi, sarà tua cura determinare come hai fatto per le tonalità. Ma, rispondeva, non so cosa dire. Potrei soltanto di mia scienza osservare che sono tre i tipi di piedi dai quali deriva ogni sistema di metrica. In pari modo, quattro sono le note fondamentali del tetracordo donde derivano tutte le tonalità. Ma non ti saprei dire quali siano e di quali tipi di vita singolarmente siano imitazione. Ma se è per questo, dissi, anche insieme a Damone potremo decidere e vedere le misure convenienti a un tenore illiberale di vita, quelle convenienti alla violenza, alla follia e ad ogni altra forma di malvagità. E così pure i ritmi che dovremo riservare per le condizioni contrarie. Mi pare d'aver udito non chiaramente che egli parlava di un composto enoplio. Così pure, non saprei come, trattava il piede dattilico e l'eroico e li disponeva in modo che arsi e tesi fossero uguali, in modo che le sillabe lunghe e brevi fossero tra loro sostituibili. Di più, come mi par bene, chiamava giambo e trocheo un altro piede e adoperava per l'uno e per l'altro quantità convenienti, lunghe e brevi. E in taluno di questi piedi credo che egli biasimasse o lodasse il movimento rapido o lento, come pure i ritmi stessi, e talvolta anche l'effetto combinato dell'una cosa e dell'altra. Ti ripeto che non so bene, tutte questioni che del resto, come ti dissi, presenteremo al giudizio di Damone. Decider bene è cosa di non poco discorso, non credi? Credo. Ma su quanto segue ti puoi benissimo pronunciare, che cioè a una prassi opportuna o sconveniente di ritmo consegue un contegno decoroso o indecoroso. Come no? Così pure un ritmo buono o cattivo si accompagna, il primo, a una locuzione conveniente e bella, il secondo alla contraria. In pari modo le cadenze e le variazioni di tono nella musica, convenienti e sconvenienti. Ciò avviene dato che il ritmo e la musica seguono la parola, come ora si diceva, e non la parola il ritmo e la musica. Si capisce, concluse, ritmo e musica dovranno tener dietro alla parola. Ma, continuai, il tono dello stile e in genere le caratteristiche della parola non dovranno a loro volta tener dietro al carattere dell'anima. Come no? E al tono dello stile tutto il resto. Sì, una scelta dunque d'argomenti nobili ed elevati, una perfetta realizzazione musicale, un portamento dignitoso e la nobiltà del ritmo tengono dietro a un'onestà e a un candore interiore. E non voglio certo dire quel candore che è poi stoltezza e che chiamiamo così per eufemismo, bensì quella dirittura della mente che in modo bello e con opportuno dominio di noi stessi presiede al carattere. Hai perfetta ragione, rispondeva. E i giovani non debbono perseguire tutto ciò, seppur debbono compiere il dovere di custodi. Sì, certo. Sai bene del resto che la pittura e tutte le arti che ne dipendono non sono estranee a questi precetti. Anche non ne è estranea l'arte tessile, l'arte del ricamo, l'arte edificatoria e ogni altra che produce comuni oggetti d'uso. Così pure la naturale disposizione dei corpi animali e anche gli organismi del regno vegetale. In tutti esiste sempre una conveniente eleganza ed armonia. Anche il suo contrario si può trovare. E la disarmonia, l'ineleganza, la mancanza di ritmo, la sconveniente disposizione d'atti e di movimento sono tutte espressioni di una interiorità male disposta e male abituata. Le contrarie doti sono invece messaggere di una condizione contraria, d'un costume cioè temperante e buono. A questo semiglianti ne sono espressa imitazione. Senza dubbio, rispondeva, hai ragione. E allora dovremmo imporre ai poeti soltanto di effigiare nei canti l'immagine buona del costume? Soltanto questi dovremo costringere a tale norma, vietando in caso contrario d'esercitar persino la loro missione? O non dovremo piuttosto fare la medesima imposizione anche agli altri artefici, impedire cioè di rappresentare, sia nelle immagini dei quadri, sia negli edifici, sia in qualsiasi altra opera da essi compiuta, questa specie deteriore, sfrenata, illiberale e disarmonica? E chi non ne sia capace non avrà autorizzazione di far dimora presso di noi. I nostri custodi, infatti, non debbono essere educati tra immagini di malvagità, come in un cattivo pascolo. Minuto per minuto, ogni giorno, ricevendo in sé continuamente queste immagini e quasi pascendosi, senza avvedersene, formeranno poi un tutto unico, male grande dentro l'anima. A questo scopo dovremo ricercare artefici adatti per congenite doti a perseguire orme di quanto per natura è bello e ordinato. I nostri giovani avranno dimora in località salubri e giovamento potranno ritrarre dovunque, da qualche opera bella, giunga qualche impressione o alla vista o all'udito. E sarà come soffio di vento che da luoghi belli e buoni reca salute e vigore. Così, senza accorgersene, fin da bambini, saranno condotti ad imitare, ad amare ragioni di bellezza e a conformarsi in perfetto accordo. «Oh, così sì», rispondeva, «saranno educati magnificamente». E allora, Glaucone mio, appunto per questo motivo, l'educazione più opportuna si svolge per mosaica attività. Il ritmo e l'armonia discendono profondamente e con vigore incredibile dentro le anime, apportano eleganza nel porgere e rendono, nello stesso tempo, elegante e armonioso chi rettamente sia educato. E chi non lo sia, si troverà in condizione opposta. Del resto, chi fu educato come si deve con mosaica disciplina, ha percezione rapidissima e vivacissima di deficienze, così pure di cose non bene condotte a termine e in genere di ciò che non ha per natura condizione d'armonia. Con giusta suscettibilità, quindi, l'individuo mosaico esalterà le cose belle, ne avrà particolare godimento e le accoglierà nell'anima sua, ne sarà sostenuto e diverrà un uomo elevato e fine. Del pari, criticherà vivacemente ciò che è brutto, ne sentirà antipatia e odio, pur essendo ancor giovinetto, prima cioè d'esser capace d'un esatto discernimento. E quando poi potrà formulare un preciso giudizio, ne accoglierà tranquillo la sentenza, riconoscendola quasi familiare, egli appunto educato secondo quei criteri. Mi sembra proprio che siano queste le ragioni che ci impongono un'educazione con indirizzo mosaico. Poi continuai: quando si tratta di lettura, ci si trova soltanto in condizione di sufficiente preparazione nel momento in cui ci accorgiamo che le lettere sono in piccolo numero e che si presentano in tutte le combinazioni possibili. Allora non ci preoccupiamo se le lettere ci appaiono in piccolo o in grandi dimensioni, quasi che non dovessimo averne percezione se troppo grandi o troppo piccole, bensì cerchiamo di riconoscerle comunque tutte, convinti di non saper leggere prima di arrivare a questa condizione. È vero, e in quanto alle immagini delle lettere riflesse in uno specchio o nell'acqua, potremmo dire di conoscerle se prima non le conosciamo quali sono in se stesse, cognizione del resto che si ottiene con un'arte unica e con un esercizio parimenti unico ed uguale al precedente. Hai ragione. Allora, come sto dicendo, non saremo perfetti musici. Noi intanto, e così pure quei custodi che diciamo di voler educare, se non potremo riconoscere e perseguire, dovunque si trovano, gli aspetti vari e nello stesso tempo l'impartecipata natura della temperanza, della fortezza, della liberalità, della magnanimità ed altre virtù che a queste sono sorelle, e così gli aspetti contrari, e dovremo avere questi singoli aspetti in conto uguale, tanto se ci si presentano in grandi che in piccole proporzioni. Dovremo da ultimo ritenere che la conoscenza di questo duplice ordine di fatti proviene da un'unica arte e da un unico esercizio. È proprio così, rispondeva, e se qualcuno avrà nell'anima il segno d'un carattere bello, se nell'aspetto esteriore altri segni ai primi s'accorderanno e armonizzeranno con quelli in quanto partecipanti al medesimo esemplare, Non credi che quest'uomo fornirà visione meravigliosa a chi lo contempla? Certo, e questa creatura così bella non sarà degna di singolare amore? Come no? L'uomo mosaico, dunque, sarà innamorato di simili nature. Un mosaico non potrà mai amar natura priva di musica e d'armonia. Eh no, rispondeva, perché il difetto in tal caso avrebbe sede nell'anima. Se invece l'amato avrà qualche difetto fisico, l'amante mosaico potrà sopportare e ne cercherà egualmente l'amore. Capisco, dissi. Hai avuto certo o hai ancora qualche amico in simili condizioni, perciò ti concedo la cosa. Piuttosto dimmi, temperanza e sfrenato uso del piacere hanno qualche cosa in comune? Come mai? Rispondeva. Il piacere trae fuor di senno non meno che il dolore. Ma almeno qualche cosa in comune con le restanti virtù? Per nessun modo. Con la violenza? Con la sfrenatezza? In modo grandissimo. E mi sapresti dire un piacere più grande e più acre del piacere sessuale? No, non saprei, disse lui, e nemmeno un piacere che maggiormente ci tolga il controllo della mente. Il retto amore, invece, per sua stessa natura, persegue, amando con temperanza e con mosaica armonia, le cose belle e ordinatamente armoniose. Ma certo, rispose, al vero amore, dunque, non deve aggiungersi elemento di follia, nulla che sia congiunto alla sfrenatezza. No, non si deve aggiungere. E concluderemo dicendo che quel piacere d'amore non deve mai aggiungersi. E l'innamorato e l'amato stesso, se nel primo sarà vero amore e se l'amato sarà veramente amato, non cercheranno mai il piacere. No, Socrate, è un'aggiunta codesta che non si deve fare. E così, senz'altro, pare evidente, nella città che stiamo fondando, stabilirai per legge che questa sia forma vera d'amore e che per tal modo, quando ne abbiano conquistato il cuore, gli innamorati debbano trattare le persone amate, godere della compagnia e della loro presenza come fossero figli, solo per ragione di bellezza. Insomma, i colloqui con chi è oggetto del nostro amore dovranno svolgersi in modo che non ci sia nemmeno l'apparenza di voler oltrepassare questi limiti. Nel caso contrario, ci si potrà biasimare, perché ignari d'ogni senso di bellezza, vere nature contrarie al mosaico ideale. Così, rispondeva. E non ti par forse che l'argomento sulle attività mosaiche abbia raggiunto la perfezione? E dove era opportuno terminare, ivi è terminato. In realtà, le cose mosaiche debbono aver termine ultimo nell'amorosa scienza del bello. D'accordo, disse lui. Quindi io. Ma dopo le discipline mosaiche, i giovinetti debbono essere educati per mezzo di esercizi fisici e ginnici. Sì, certo. Voglio dire che è necessaria un'educazione accurata, fin da bimbi, per tutta la vita, anche in questo senso. E la cosa, penso io, sta intanto in questi termini. Osserva anche tu. Non mi sembra che una condizione pur perfetta dell'organismo sia capace di render buona anche la nostra anima. Invece, un'anima buona con la propria virtù rende il corpo quanto più perfetto è possibile. E a te come pare? Anche a me, così, rispondeva. Allora, se noi avremo educato la mente alla condizione più perfetta possibile, non avremmo quindi torto quando le affideremo il compito di badare a ciò che riguarda la vita del fisico nelle sue singole contingenze. Per conto nostro, quindi, indicheremo soltanto alcune caratteristiche essenziali per non diffonderci troppo col discorso. Non v'è dubbio. Cominciamo allora. Abbiamo già detto che i custodi debbono tenersi lontani dall'ebbrezza. Concederemo infatti a tutti, ma non a custode inebriato, di non sapere in qual parte della terra si trova. Oh, veramente è una cosa ridicola che un custode abbia bisogno di un altro custode. E senti un po', cosa diremo per il cibo? I nostri uomini non sono forse atleti votati alla più grande prova, o no? Sì. E ti par forse che il regime d'allenamento degli odierni atleti convenga ai nostri custodi? Forse. Ma è un regime di vita che dà molta parte al sonno ed è poco sicuro per la salute. Non vedi? Dormono tutta l'esistenza. E se esce fuori un po' dei limiti stabiliti, questa gente s'ammala non poco e gravemente. Lo vedo. Allora, dissi, si richiede un regime d'allenamento più ben congegnato per questi nostri specialisti, allenati alla guerra. È necessario, in realtà, che costoro siano come cani desti e vigili, debbono acutamente vedere e udire, e pur dovendo affrontare durante una spedizione cambiamenti subitanei nel regime dietetico, nella temperatura torrida o gelata, non debbono risentirne conseguenze alla salute. Mi pare che tu non abbia torto. E la migliore forma d'educazione fisica non è forse sorella di una semplice e monda mosaica educazione, quella che poco fa abbiamo delineato? Come dici? Semplice e conveniente, insomma, l'educazione fisica, e in modo precipuo quella che ha relazione con la guerra. In quale senso? Anche da Omero, dissi, si possono ricavare considerazioni non diverse. Al fronte, per esempio, nei banchetti degli eroi, il poeta non ci rappresenta mai in bandigioni di pesce, eppure erano presso al mare, sull'Ellesponto, così nemmeno di carni bollite, ma soltanto di carni arrostite, cibi che per uomini d'arme sono facili a prepararsi. In ogni luogo, infatti, è più comodo servirsi del semplice fuoco, piuttosto che portar pentolo in giro. Certo. E inoltre, così mi pare, Omero non fece mai cenno di dolciumi. Del resto, quanti si sottopongono a regime d'allenamento sanno bene che chi vuol godere di perfetta salute deve guardarsi da simili alimenti. Eh sì, rispondeva, lo sanno e se ne tengono lontani. E allora non approvi la cucina siracusana, mio caro, e quella siciliana, così ricche e varie di cibo, seppure è vero che le mie considerazioni ti sembrano esatte. Mi par di no. E non approvi nemmeno che qualche ragazza di Corinto sia troppo amica ad uomini che dovranno godere di prestanza e di vigore fisico. Certamente. E così pure, ti pare, nemmeno le rinomate focacce attiche, quelle che si ritengono così squisite, necessariamente. Perché non si avrebbe torto se si dicesse che tutti questi cibi e tutti questi modi di vita sono simili a quello stile di canto e a quelle melodie composte di tonalità complesse e con infinite varietà di ritmo. Come no? E allora, prima, la ricercatezza eccessiva non produsse forse intemperanza e disarmonia? Qui invece diventa causa di morbi per il corpo. Reciprocamente, la monda semplicità nelle operazioni mosaiche produce per l'anima la temperanza, nel campo invece dell'educazione fisica la salute del corpo. Verissimo, rispondeva. Ma quando sfrenata licenza e ogni sorta di morbi in una città regnino incontrastati, allora, ecco, per ogni dove s'aprono tribunali e ospedali. Le discipline giudiziarie, allora, e quelle mediche, assurgono importanza, e molti uomini liberi rivolgono a quelle ogni attività. E potrebbe essere altrimenti? Ma allora io avrei modo d'argomentare con sicurezza che in una città il sistema educativo non è come si dovrebbe, osservando che non solo le persone di infima condizione e gli artigiani, ma persino quanti vantano una libera ed elevata educazione, hanno continuo bisogno di medici e di avvocati esperti. O non ti pare brutta cosa e segno d'educazione incompiuta e imperfetta questa giustizia dedotta da criteri altrui, quasi che questi consulenti fossero padroni e giudici, questa mancanza d'un personale criterio e d'una opportuna valutazione? Oh sì, rispondeva, è cosa brutta. Ma c'è qualche altra cosa, continuai, più brutta ancora, e sono sicuro che sei d'accordo con me. E questo avviene quando non soltanto si consuma per i tribunali la massima parte della vita in continua processi, ora per difesa, ora per accusa, ma persino, e ciò è dovuto a cattivo gusto, ci si lascia andare a menarne vanto, ci sembra d'essere campioni d'offesa, abilissimi nel volgersi ad ogni genere di finte, perfetti nell'esplicare ogni sorta di verbose esplicazioni per fuggirsene poi con un voltafaccia, schivando così, sottili come un giunco, il colpo dell'avversario. E tutti questi sforzi, pur di non pagare la giusta pena, anche per piccole cose di nessun valore. E non sanno quanto sia più bello disporre la propria vita in modo da non aver nessun bisogno di un giudice che ascolta sonnecchiando. Già, rispondeva, questo male davvero è più brutto dell'altro. E quel bisogno continuo di cure mediche, non certo per ferite o perché si è colpiti da malattie che secoli e stagioni apportano, ma come conseguenza di una vita inerte e condotta secondo i bei principi di cui ora si diceva. Ci si riempie fino al collo di flussi e di vapori, come si fosse tante paludi, e si costringono gli acuti seguaci d'Asclepio a trovar fuori per questi morbi gli appellativi di flussioni e di catarri. E non ti pare brutta cosa codesta? Purtroppo, rispondeva, sono davvero strani e nuovi i nomi che si attribuiscono alle malattie. Nomi che al tempo d'Asclepio certo non esistevano, e ne posso dar prova sicura. I figli d'Asclepio sotto Troia non rivolsero parole di biasimo alla donna che dava da bere ad Euripilo ferito, insieme al vino di Pramno, abbondante farina intrisa nel vino e cacio grattugiato. E, nota, sono tutti alimenti che riscaldano. E nemmeno dissero rimprovero a Patroclo che aveva proposto il farmaco. Hai ragione, per chi si trova in quelle condizioni il beveraggio è non poco strano. Eh no, invece devi pensare, continuai, che gli Asclepiadi non seguivano ai loro tempi questa medicina d'oggi, capace solo di covare e di allevare i morbi. E dicono che questo sistema non ci fosse prima della nascita di Erodico, il quale Erodico, essendo direttore di palestra, una volta si ammalò. Fece una mistura di ginnastica e di medicina e finì col tormentare se stesso intanto e poi altri innumerevoli dopo di lui. In che maniera? Chiedeva. Procurando a se stesso una lentissima morte. Infatti doveva curare una malattia di carattere mortale per cui non poteva nemmeno pensare di guarire. Visse dunque gli anni che gli rimasero non facendo più nulla e cercando di curarsi alla meglio. Era pieno di preoccupazioni e di crucci ogni volta che infrangeva o violava i precetti del regime di cura. Insomma, giunse all'ultima età combattendo, alleata sua bravura, contro la morte. Proprio un bel regalo gli fece, rispondeva, quell'arte. Un regalo naturale, per chi non sapeva che Asclepio tralasciò di mostrare ai suoi discendenti questo metodo terapeutico, non perché ne fosse ignaro o non ne avesse sufficiente esperienza. Oh, il grande medico sapeva perfettamente che, per i bisogni di comunità bene ordinate nelle loro leggi, ciascun cittadino ha definito un proprio campo di lavoro, e in questo campo ciascuno deve rivolgere la propria operosità. Certo, a nessuno è concesso di starsene in ozio per curare con tanta fatica soltanto la propria persona, ed è strano e ridicolo il nostro modo di fare. Facciamo tanti casi quando si tratta di artigiani, ma quando si tratta di persone ricche, di gente felice, secondo il comune giudizio, la cosa sembra del tutto naturale. Come? Domandò. Risposi. Un falegname è ammalato. Domanda al suo medico una cosa sola quando prende la medicina. O rigettare per bocca la sua malattia, o di sotto purgarsene, o liberarsene, valendosi di cauterizzazione o di operazione chirurgica. Supponi che gli si proponga una cura lunga, per esempio cingere il capo di un berretto di lana e altre pratiche del genere. Immediatamente costui farà dichiarazione che non ha tempo di starsene ammalato, che la vita non gli giova più a questi patti, con la mente cioè tutta rivolta alla sua malattia, senza più potersi occupare del lavoro che gli si accumula dinanzi. In conseguenza il nostro falegname farà un bel saluto a questo signor medico e si affiderà ai comuni metodi di cura. Guarirà? E allora continuerà a vivere, attendendo al proprio lavoro. Se poi il corpo non è più capace di reggere, giungerà alla fine e sarà libero da ogni pensiero. Sì, al nostro falegname, rispondeva, davvero conviene fare uso di medicina in questo modo. E certo, dissi, perché ha una sua attività, interrotta la quale non gli sarebbe possibile più vivere. Chiaro, rispondeva. D'altra parte, il ricco, come si sta dicendo, non ha un simile lavoro che l'attende, interrotto il quale gli riuscirà impossibile vivere. No, certo, s'afferma almeno. Ma allora, chiesi, non sai come dice Focilide, soltanto quando si abbiano mezzi per vivere si potrà esercitare la virtù. Ma io direi che non si deve aspettare quel momento. Bene, non staremo a far litigio con lui su questo punto. Piuttosto cerchiamo fra noi di venire in chiaro sulla cosa. Non deve forse il ricco esercitare questa virtù? Non sarà forse inutile per lui la vita se ciò trascura? In conseguenza, abbiamo veduto che questo sistema di coltivare le malattie toglie al falegname e agli altri operai la possibilità di attendere al loro mestiere. E dovremmo forse dire che se si tratta invece della esercitazione di Focilide, il sistema non costituisca per il ricco impedimento alcuno? Lo costituisce, sì, disse lui. E soprattutto, inoltre, quella cura eccessiva del corpo che oltrepassa i precetti della ginnastica. Del resto, anche riesce di impedimento per l'amministrazione dei propri beni, per il servizio militare, per le magistrature dello Stato. Ma in modo particolare, poi, se si considera possibilità di apprendere, si trova un impedimento continuo in ogni meditazione e riflessione interiore, sospettando per ogni dove arcane flussioni di testa e vertigini, e dando colpa ad ogni inconveniente allo studio, quasi che tutto provenisse da troppa intensa applicazione. Insomma, dovunque, con l'aiuto di filosofia, la virtù venga esercitata e ricercata, questo metodo produce impedimento e ostacolo. È lui che ci fa credere di essere sempre ammalati e non lascia un momento di tregua ai dolorosi lamenti sulle condizioni del proprio organismo. Proprio così, rispondeva. Allora dovremmo affermare che anche Asclepio sapeva benissimo queste cose. Il grande uomo istituì la medicina ad uso di persone naturalmente sane e che, per il loro igienico tenore di vita, avevano anche l'organismo sano. D'altra parte, potevano essere colte da qualche malattia isolata e il grande medico cercava di espellere questa malattia appunto con medicine o con tagli chirurgici, concedendo il modo di continuare nel solito tenore di vita, allo scopo di non portare danno alla città. Al contrario, Asclepio trascurava un fisico, nel suo interno e in tutte le sue parti, infermo. Non tentava, nemmeno con cure speciali, di purgarlo a poco per rendere brutta e cattiva la vita all'uomo, instillandovi rimedi d'ogni sorta, con l'unico risultato di piantare altre generazioni simili alla prima. Insomma, credeva di non dover intraprendere nessuna cura per chi non fosse in grado di fornire il corso di sua esistenza secondo il ciclo del tempo determinato. Quest'uomo non l'avrebbe dato di buono né a sé né alla patria. Oh, tu mi fai da Asclepio un vero politico. È cosa che si vede, risposi. Del resto, i figli di lui indicano che egli era così. Non vedi che anche a Troia si mostrarono valorosi nella guerra ed esercitarono la medicina nel senso che ti sto dicendo. Ti ricordi certo che Menelao fu colpito e ferito per opera di Pandaro ed essi, sangue succhiando, miti distesero farmachi intorno. Ma in quanto alla dieta successiva, nel cibo e nelle bevande, non gli dettero nessuna direttiva, proprio come ad Euripilo. Erano insomma d'opinione che le medicine fossero bastanti per ridonare la salute ad uomini che prima di essere feriti erano sani. Ad uomini che conducevano una vita moderata e ordinata. Ritenevano invece che, per una natura debole e malaticcia oppure intemperante, a nulla davvero avrebbe giovato continuare la vita, che l'arte del medico non doveva essere a disposizione di costoro e che non valeva la pena curarne i morbi, anche se quegli uomini fossero stati più ricchi di Mida. Tu mi dipingi, rispondeva, i figli di Asclepio veramente accorti e profondi. E va proprio bene, continuai, anche se i poeti tragici e Pindaro non prestano ascolto e dicono che Asclepio era figlio d'Apollo e che fu indotto per denaro a curare un uomo assai ricco, mortalmente ammalato, onde, appunto, fu colpito dal fulmine. Ma in conformità a quanto si disse, non intendiamo porgere ascolto sull'uno e sull'altro punto delle leggende. In realtà, se era figlio di Dio, non era, diremo, un avaro simile. Se invece era avaro, non era un figlio di Dio. Oh, questo è giusto davvero, concluse lui. Poi disse: come la pensi su quanto segue? Allora non bisogna che nella nostra città ci siano buoni medici. Capirai che risultano bravi medici quanti hanno potuto passare in osservazione moltissimi sani e moltissimi ammalati. E per i giudici vale la medesima ragione. I migliori hanno avuto da sperimentare le più svariate nature d'uomini. Per conto mio ammetto certo che ve ne siano di buoni, ma sai forse quali, secondo me, siano buoni? Se me lo vorrai dire, rispondeva. Ebbene, cercherò di dirtelo, ma con l'unica tua domanda non mi fai quesito sopra unico fatto. In che senso? I medici potranno diventare bravi se, cominciando da fanciulli lo studio della loro arte, avranno modo di trattare sempre con un numero grande di organismi gravemente ammalati. Anche, poi, nulla impedirebbe che avessero sofferto essi stessi ogni sorta di morbi e che la loro salute fosse molto cagionevole, in quanto non curano il corpo per mezzo del corpo. In tal caso non si potrebbe mai concedere che questo corpo, che deve curare se stesso, fosse stato o diventasse infermo, ma bensì con l'anima curano il corpo. E non è possibile che, se l'anima è stata o è inferma, curi qualsiasi altra cosa come si deve. Va bene, rispondeva. Il giudice, invece, mio caro, comanda all'anima per mezzo dell'anima. E, allo scopo che quest'anima acquisti anche capacità di giudicare dalla sua stessa esperienza le ingiustizie altrui, come i morbi nell'ordine fisico, all'anima non si concede crescere fin dall'età giovanile in mezzo ad anime cattive, accompagnarsi con queste e per avere essa stessa commesso ogni ingiustizia, acquistar pure esperienza ad ogni ingiustizia. Al contrario, seppur deve in piena onestà pronunciare un giorno sano giudizio, è necessario che l'anima non faccia prova diretta del male e che fin dalla prima età ne sia anzi interamente immune. Questo è il motivo per cui i giovani di buona natura appaiono talvolta ingenui e i malvagi hanno buon gioco intessendo inganni. Certo, non posseggono in se stessi alcun esempio, formatosi in parità d'esperienza con ciò che nei malvagi accade. Sì, rispondeva, avviene appunto questo. Per tale motivo, dissi io, il buon giudice non deve essere un uomo giovane, bensì un vecchio, un uomo in cui tarda si sia formata esperienza di ciò che è ingiustizia, un uomo che non ne abbia avuta sensazione perché ingiustizia fosse dentro la sua stessa anima, bensì egli deve aver considerato attentamente, come studioso, l'ingiustizia d'altri, in anime altrui, e solo dopo lungo tempo dovrà aver compreso quanto grande male sia l'ingiustizia. E ciò per scienza, non certo valendosi di personale esperienza. Oh, davvero un tale giudice sarebbe nobilissimo, esclamò. Ma buono, soprattutto, aggiunsi, ed è quello che tu mi domandi, e buono, vedi, è colui che in sé possiede un'anima buona. Invece quell'altro, furbo e pieno di sospettosi accorgimenti, l'altro che si è maculato di ingiustizia. Costui, finché tratta con uomini della sua condizione, pieno come è d'accorgimenti, appare, ammettiamolo pure, accorto e furbo. E si capisce, il suo occhio è fisso tutto agli esempi che sono dentro di lui. Ma quando invece s'accosta a persone oneste e mature d'anni, allora si dimostra inetto e goffo, non si fida di nessuno, senza che questa sua sfiducia abbia ragione plausibile. E quest'uomo ignora intanto ogni sano costume, cosa naturale per chi non reca più in sé alcun esempio di onestà. D'altra parte, siccome potrà imbattersi più sovente in malvagi che non in persone oneste, finirà per acquistare opinione presso sé e presso gli altri d'uomo accorto e sapiente. È proprio vero, rispondeva. E così, continuai, non si deve cercare un giudice buono e veramente saggio fornito di queste caratteristiche. Cercheremo bensì quello di prima. La malvagità non riuscirà in nessun modo a riconoscere la virtù, come pure non conoscerà mai se stessa. Invece, se nell'individuo vi sia una buona natura, la virtù sostenuta dall'educazione finirà per acquistare scienza di se stessa insieme e della malvagità. Un tale uomo, in conclusione, mi pare evidente, potrà diventare un savio, mai lo diventerà il malvagio. Già, rispondeva, anche a me pare così. In conclusione, stabilirai per legge nella nostra città un tipo d'arte medica, quale si diceva, insieme a un potere giudiziario sul tipo di quello già detto. Ambedue queste arti cureranno i cittadini ben disposti per natura, nell'ordine fisico come pure nell'ordine spirituale. Quanti invece non hanno queste disposizioni, se sono difettosi nell'ordine fisico, li lasceranno morire. Quelli mal congegnati nell'ordine dello spirito e perciò non suscettivi di rimedio, penseranno i giudici stessi a ucciderli. Oh, ma questa è l'unica risoluzione buona, rispondeva, per questa gente sciagurata, come pure per la città. Quindi, I giovani staranno bene attenti prima di mettersi in condizione di dover ricorrere a un'attività giudiziaria. Rivolgeranno ogni opera a quella monda e semplice attività musaica di cui si disse, generatrice di temperanza. Sì, e poi? Non è forse poi vero che quest'uomo mosaico, perseguendo anche la ginnastica su queste medesime orme, potrà, se vuole, approfittarne in modo da non aver bisogno della medicina, se non per supreme necessità? Mi pare di sì. In quanto poi ai singoli esercizi ginnici, sia pur faticosi, l'uomo mosaico avrà lo sguardo rivolto al vigore morale e spirituale della propria natura. Questa cercherà di destare, a questa rivolgerà i propri sforzi, assai più che alla forza fisica. E non farà come gli atleti, che si sottopongono a un regime dietetico e ginnastico avendo in vista unicamente il vigore fisico. «Benissimo», disse lui. «E puoi tu pensare, o Glaucone, che quanti hanno disposto l'educazione mosaica e l'educazione ginnica avessero per meta soltanto quello che comunemente si crede, cioè perché si potesse curare con l'una il corpo e con l'altra l'anima? E quale meta allora?» «È molto probabile», risposi, «che abbiano disposto l'una e l'altra avendo unicamente di mira l'anima, soprattutto». «Come dunque?» «Non t'accorgi», continuai, «quali siano le condizioni anche mentali di chi per tutta l'esistenza attende soltanto alla ginnastica, chi non rivolge attenzione alle discipline mosaiche o anche per via opposta dispone la propria vita? A cosa vuoi accennare?» «A doti di fierezza e di asprezza, di mollezza e di dolcezza». «Ah, m'accorgo benissimo», rispondeva, «coloro che adottano un regime interamente ginnico risultano più fieri di quanto si conviene. Chi invece coltiva solo discipline mosaiche risulta più molle di quanto si dovrebbe». «Eppure», dissi, «col primo sistema si dà risalto ai toni vivaci e generosi dell'anima, alla potenza irascibile, la quale, se giustamente educata, ci può far uscire forti e valorosi, se tesa oltre misura, ci rende duri e difficili». «Direi di sì», rispondeva. «E senti un po', la dolcezza e la mitezza non sono forse proprie di una natura amante del sapere, una natura di filosofo, natura che, abbandonata a sé, riesce eccessivamente molle, ben educata attinge mitezza ed ordine». «È così. E affermiamo che i custodi debbono avere l'una e l'altra di queste nature». «Sì, debbono». «E l'una con l'altra non deve forse contemperarsi e armonizzarsi a vicenda? Come no? E quest'armonia non rende forse l'anima temperante e forte? Sì, certo. E la mancata armonia invece vile e selvaggia? Ma certo. Insomma, c'è chi affida la propria anima alla musica perché tutta coi suoi canti la diletti e la perfonda d'armonie». Questi canti di cui dicevamo, soavi e molli armonie lamentose, penetrano nell'anima attraverso le orecchie come attraverso imbuti, e per tutta la vita il nostro uomo, esilarata esistenza in musica e in canto, nulla più fa che gorgheggiare e trillare. Quest'uomo, supponiamo, aveva un carattere generoso per impeto e per vigore. Avviene allora come il ferro. Quell'impeto dapprima viene temperato e reso utile a qualche lavoro, da inutile com'era e soverchiamente rigido. Ma quando la musica non cessa dalla sua operazione, ma anzi continua nel suo incantamento, allora sì che tutto si dissolve, tutto si fa molle massa liquida, finché quel generoso iniziale impeto scompare. Questa eccessiva operazione mosaica taglia via, insomma, la fibra stessa dell'anima e ci rende deboli guerrieri. «Perfettamente», rispondeva. «Così dunque, quando questa operazione mosaica colga una persona inizialmente e per natura non fornita di robusto e sicuro carattere, in breve tempo gli effetti si fanno sentire. Nel caso invece che il carattere sia fiero e generoso, questo vigore spirituale è reso debole e fiacco. Eccoti l'uomo, vittima d'ogni impressione, per piccole cause tutto agitato e pieno d'ansia, e poi giù, spento e inerte. Insomma, uomini d'impeto superficiali e iracondi, non generosi, sempre malcontenti col loro difficile carattere. Purtroppo. E cosa avviene invece quando quest'uomo rivolge ogni sforzo all'educazione fisica? se ne fa un banchetto troppo sostanzioso, se nessun alito di mosaica spiritualità egli attinge, se non dedica nessuna attività alla filosofia. Intanto, per prima cosa, forte e vigoroso nel fisico, si riempie d'albagia e di impeto, poi finisce per assumere un atteggiamento che la sua condizione non gli consentirebbe. Oh, si capisce. E quando ogni attività spirituale sia ridotta a zero, quando nessuna musa abbia con lui rapporto alcuno, anche se c'era forse in quell'anima un qualche appassionato movimento per gli studi, siccome non arriva ad assaporar la gioia di nessuna conoscenza, nessuna indagine, nessuna parola disputante, nessun mosaico conforto, ecco, quell'uomo risulta debole, sordo e cieco, da nulla ridestato, da nulla sostenuto. Mai una volta i suoi sentimenti trovano purificazione. Così rispondeva. Quest'uomo, insomma, finisce per odiare discussione e parola, privo del conforto di ogni musa. Non può persuadere nessuno per mezzo di ragioni. Con violenza, con selvaggio impeto, come fiera, conduce a termine ogni suo divisamento. Vive, insomma, in piena ignoranza e in piena grossolanità, senza gioia di ritmo e senza grazia. Oh, è proprio così, disse lui. Per queste due facoltà dell'anima si potrebbe dire che Dio ha dato agli uomini due arti, l'arte mosaica e l'arte ginnica, e di queste l'una si rivolge al tono vigoroso e impetuoso della nostra natura, l'altra a quella tendenza ansiosa di sapere e avida di contemplazione, tendenza filosofica, insomma, e le due arti non sono affatto rivolte all'anima e al corpo, se non per un di più, bensì a quel tono vigoroso, a quella tendenza contemplativa, in modo che l'una con l'altro vengano ad armonizzare, convenientemente tese o rallentate sino al punto giusto. Sì, è giusta conseguenza, rispondeva. Se qualcuno, in conclusione, contempera il meglio possibile educazione ginnica con educazione mosaica e secondo giusta misura le pone a contatto della propria anima, costui, diremo certo, è amico alle muse. Perfetto uomo mosaico egli è, capace di profonde armonie, assai più che il concertista che soltanto sa tendere opportunamente alcune corde nella loro reciproca tonalità. Socrate, indubbiamente, rispondeva lui. E nella nostra città, o Glaucone, non dovremo sempre avere qualcuno che presieda a tutto questo, con l'incarico di mantenere viva quest'armonia? Oh, davvero, se desidereremo mantenere illesa la nostra Costituzione. Ma certo, è una persona abile, poi. Questi dunque i criteri generali per l'educazione e per l'allevamento dei giovani. E perché dovremmo noi diffonderci su tipi singole di danze assegnabili a questi nostri discepoli? Perché sugli esercizi di caccia alle fiere, con o senza cani, sulle gare ginniche e ippiche? Mi pare evidente che questi particolari debbano seguire i generali criteri e si possano trovare senza difficoltà. Certo, disse, senza difficoltà. E va bene, conclusi. Poi continuai. Su che cosa potrà ora svolgersi l'indagine? Dovremo determinare quali di questi uomini così educati potranno comandare e quali ubbidire. Lo credo, certo. E non è forse conveniente che i più vecchi abbiano missione direttiva, i più giovani invece siano subordinati, chiaro, e che fra i più vecchi dovranno comandare i migliori, anche questo. E i più abili tra gli agricoltori non sono forse particolarmente adatti a trattare l'agricoltura? Sì. E ora, siccome si tratta di cercare i più abili tra i custodi, non dovranno forse costoro essere particolarmente adatti alla custodia della città? Sì. E non debbono avere attitudini di intelligenza per questa missione? Non dovranno sentire interesse particolare per la cosa politica? Così è. E ciascuno prende interesse per ciò di cui sente amore. È inevitabile. E si persegue con particolare amore la sorte di quelle cose il cui benessere, lo sentiamo bene, coincide col nostro, in modo precipuo, quando il successo di quelle è successo anche per noi, e lo stesso va ripetuto per il caso contrario. Così rispondeva. Dovremo dunque scegliere, tra gli altri custodi, uomini che dopo attenta osservazione dimostrino un unico pensiero in tutta la loro vita e un'unica volontà, il bene, quale appare ad essi della loro patria. Questo E se qualche cosa porterà danno alla città, in nessun modo questi uomini vorranno collaborare a questa cosa. Sono queste le nature adatte, rispondeva. E mi pare che si debba perseguire questa osservazione in tutte le età, vedere se questi individui siano atti a custodire tale opinione, se per influsso di seduzione o di violenza non la caccino forse via da sé, dimentichi che si deve far sempre l'interesse della patria. Ma qual è questo cacciar via a cui accenni? Te lo dirò, risposi. Un'opinione, penso io, s'allontana dalla nostra mente per volontario o per involontario oblio. Volontariamente, una fallace opinione in chi si libera da errore. Involontariamente, invece, ogni opinione vera. Capisco benissimo il caso della dimenticanza volontaria. Vorrei qualche chiarimento per quella involontaria. Senti, allora. Non credi che gli uomini vengano privati involontariamente di qualche bene, volontariamente invece di qualche cosa cattiva? O non credi che l'errore a proposito della verità sia cosa brutta? Buona cosa invece conoscerla questa verità, e non pensi che il formulare un'opinione esatta sia cogliere il vero? Hai ragione, e penso che gli uomini non vogliano lasciarsi privare di una vera opinione. E ciò non accade forse per furto, per incantamento o per violenza? Nemmeno ora mi riesce di seguirti. Oh, si capisce, parlo difficile come i poeti tragici. Dico per furto, intendendo riferirmi a quanti vengono sviati, a quanti si dimenticano, e voglio intendere che questi, per opera del tempo, i primi per opera di parola, distratti dal primo pensiero, vengono posti inavvertitamente in una condizione d'oblio. Ora spero capisci, è vero? Sì. Intendo invece trattarsi di violenza quando si viene condotti a opinione diversa per opera del dolore o di qualche contrarietà. Ho inteso bene anche questo punto, rispondeva, e hai ragione. In quanto poi all'incantamento, dirai senza dubbio anche tu che si tratta di quanti cambiano opinione allettati dall'azione del piacere o trasportati da qualche terrore. Già, concluse lui. Chi è vittima di un inganno subisce incantamento maligno. Tornando così al nostro argomento, si voleva cercare quali fossero i custodi più perfetti di questa sentenza, attuare sempre quel consiglio che appare ottimo per la patria. In questa cernita è necessaria molta attenzione fin dagli anni più teneri. Conviene mettere i giovani in frequenti occasioni, sì da provare se veramente dimenticheranno quella sentenza oppure se si lasceranno condurre a facile errore. In tal modo potremo scegliere chi non dimentica, chi sia superiore ad ogni deviazione, e rifiutare invece le condizioni contrarie. Non credi? Sì. E si debbono inoltre proporre faticose operazioni e contrarietà ad ogni genere e gare severe, e in tutte seguire attentamente questi stessi criteri. Benissimo, rispondeva. Ma non credi, continuai, che sia opportuno praticare un terzo tipo di prova, l'allettamento e l'incantamento. Come infatti i puledri vengono provati con rumori e altre cose atte a incutere spavento, e si osserva la loro natura per vedere se sia ombrosa, allo stesso modo, finché sono giovani, si tratta di porre i nostri custodi in situazioni che possano destar paura e lasciarli inoltre liberi di fronte al piacere. E questa prova deve essere più accurata di quella con cui si prova col fuoco l'oro. Si potrà osservare se sanno essere superiori a ogni allettamento, se sanno mantenere un contegno dignitoso in ogni situazione, se ciascuno è custode valente di se stesso e di quell'armonia mosaica che gli abbiamo insegnato. Se il contegno, in ogni caso, esprime armonia di ritmo, scorgere insomma le doti che consentano d'essere utili a se stessi e alla patria. In tal caso, dopo prove ripetute nell'età infantile, nell'adolescenza e nell'età adulta, chi esce senza macchia sarà governatore della città e custode. Gli si dovranno attribuire onori da vivo e da morto, gli si concederà, supremo omaggio, una tomba, gli si erigeranno monumenti che ne facciano il ricordo eterno. Chi non ha invece queste qualità dovrà essere allontanato. Ecco, o Glaucone, come secondo me dovrà essere la selezione e la formazione dei capi e dei custodi. Naturalmente si tratta di criteri generali, non di particolareggiate ed esatte disposizioni. Anch'io, disse, press'a poco, sono della stessa opinione. E costoro non si debbono forse giustamente chiamar custodi perfetti di fronte ai nemici esterni e di fronte agli amici di dentro? Avverrà così che i primi si guarderanno bene dal fare offesa, gli altri non saranno in condizione di produrre danno alcuno. Più particolarmente, poi, i giovani che ora chiamavamo semplicemente custodi saranno ausiliari ed esecutori di decreti emanati dai capi. Mi sembra che vada molto bene, rispondeva. Ma poi dissi, e quale provvedimento prenderemo per menzogne che diremo necessarie e di cui poco fa si parlava? Si tratta di menzogne oneste con cui cercheremo di persuadere i capi dello Stato, e se non questi, la restante popolazione almeno. Quali intendi? Chiese. Nulla di nuovo. È una storia come quella del fenicio Cadmo, una cosa tante volte avvenuta nel passato, così almeno i poeti dicono, e sulla cui verità persuasero ormai molti. Ai giorni nostri il fatto non si è mai verificato e credo che non si verificherà mai. Oh, non è facile infondere persuasione a questo proposito. Par proprio, esclamò, che tu abbia paura a spiegarti. Vedrai che avevo ragione d'aver paura quando ti avrò detto la cosa. Parla pure e non temere. Dico dunque, eppure sul serio non so con quale ardimento, con quale termini, potrò esporre il mio pensiero. Mi proverò intanto a far persuasi gli stessi governanti e i militari, in un secondo tempo il resto della cittadinanza. Quelle discipline che servirono alla loro educazione, tutto era quasi un sogno anche le vicende che avevano creduto di sperimentare ed essi credevano che avvenissero veramente attorno a loro. In realtà, invece, in quel tempo stavano nel profondo della terra dove venivano plasmati e allevati. Ma non solo le persone, anche le armi e tutto l'equipaggiamento veniva preparato. E diremo che quando poi fu compiuta la fatica, la terra, comune madre, li fece uscire alla luce. Per questo motivo ora essi debbono provvedere alla terra di quella patria in cui sono, debbono difenderla. Se straniero impeto l'assalirà, come madre e nutrice. Inoltre dovranno considerare gli altri concittadini quali fratelli, nati dalla medesima terra, e combattere per essi. Oh, non ha torto, rispondeva. Poco fa ti sentivi così incerto, dovendo dire questa menzogna. Ed era giusta e naturale la mia incertezza. In ogni caso, ascolta anche il resto del racconto. Siete dunque fratelli, quanti vi trovate in questa città? Così diremo poi, continuando nel nostro racconto. Ma il Dio, mentre vi plasmava, oro infuse in quanti di voi sono adatti al governo. Per tale ragione, costoro particolarmente pregiati, infuse invece argento a quanti avrebbero dovuto adempiere missione da ausiliari, ferro infine e bronzo ai contadini e agli altri artefici. Voi potete certo generare figli uguali a voi stessi, ma data l'affinità della vostra origine, potrebbe anche avvenire talvolta che da loro sia generata prole argentea e dall'argento prole aurea, e gli altri metalli, l'uno con l'altro, così possono tramutare. In conseguenza, il Dio dà ai magistrati un ammonimento primo e supremo perché nulla custodiscono con tanta intensità di studio come le nuove generazioni. Qualora i nuovi nati presentassero all'occhio del legislatore un segno anque tenue di metallo commisto, e fosse pure la sua propria discendenza che risultasse maculata di bronzo o di ferro, ebbene, per nessun modo il legislatore ne dovrà avere indegna compassione. In tal caso, attribuendo alla natura il dovuto onore, dovrà spingere questi maculati nella categoria degli artigiani e degli agricoltori. Così pure, reciprocamente, qualora germinasse da questi un uomo coi caratteri dell'oro e dell'argento, gli dovranno dare il dovuto onore e lo condurranno l'uno fino alla casa dei custodi, l'altro degli ausiliari. Beh, infatti, un oracolo. La città perverrà a rovina quando custode di ferro o custode di bronzo la custodiranno. E avresti un mezzo buono per fare in modo che vengano persuasi sulla verità di questo racconto? Veramente, rispondeva, nulla ti saprei suggerire, in quanto a loro personalmente. Bensì, la cosa sarà più facile per i figli, per i discendenti e per gli altri uomini che poi verranno. Sì, va bene, dissi, però Anche così prenderanno cura migliore della patria e dei concittadini. Mi pare, in realtà, di intuire secondo tale senso il tuo pensiero. In ogni modo, la nostra leggenda si diffonda pure come meglio sarà possibile. Noi intanto armeremo questi nati dalla terra e li raduneremo sotto la guida dei capi. Verranno e cercheranno nel territorio il luogo più opportuno ove accamparsi. Un luogo, cioè, donde potranno meglio trattenere quelli di dentro nel caso che qualcuno non volesse prestare obbedienza alle leggi. E così pure, dal medesimo luogo, potranno difendersi contro quelli di fuori, se il nemico, come lupo in mezzo al gregge, s'avventasse. Così costruiranno il campo, faranno i sacrifici a chi si deve e innalzeranno le tende, non credi? Certo, rispondeva. E non saranno forse queste tende adatte a dar riparo durante l'inverno e durante la stagione calda? Come no, tu vuoi accennare a dimore stabili. Sì, risposi, dimore militari in ogni caso, non da mercanti. E in qual senso, secondo la tua opinione, differiscono le une dalle altre? Cercherò di dirtelo. Il caso peggiore e che nello stesso tempo arreca grave onta a un pastore è allevare cani custodi del gregge, i quali, per sfrenatezza, per fame o per qualsiasi altra cattiva abitudine, proprio loro tentassero di portar danno alle pecore e invece che a cani assomigliassero a lupi. Brutta cosa, disse, come no? E non sarà necessario prender cura attenta perché i difensori, per il fatto d'essere più forti, non agiscono in questo modo con i loro concittadini. Guai se invece che a benigni alleati si faranno simili a selvaggi padroni. Cura attenta, si capisce, rispondeva. E non saranno premuniti nel modo migliore quando effettivamente saranno stati educati bene? Ma sono stati educati davvero, rispondeva. E io continuai. Oh, su questo punto non si può affermare d'essere perfettamente sicuri, mio caro Glaucone. La nostra recente affermazione in ogni modo è sicura. Bisogna cioè assolutamente trovare una retta educazione, qualunque essa sia, che conceda la dote più importante, seppur debbono mostrarsi miti nei reciproci rapporti e miti con le persone affidate alla custodia. Sì, ed è cosa giusta, disse lui. Oltre dunque all'educazione, seppur si comprende l'importanza del problema, si dovranno fornire dimore e possessi che non ne intralcino l'attività d'ottimi custodi e che non diano incitamento ad atti di violenza verso i concittadini. Sì, e comprenderemo l'importanza del problema. Osserva dunque, continuai, se non siano necessari un tenor di vita e un alloggio sul tipo che ti farò vedere, dato che pur dovranno essere forniti delle qualità di cui stiamo dicendo. Intanto nessuno, se non per suprema necessità, deve possedere una privata sostanza. In secondo luogo, nessuno deve avere una casa o un luogo di deposito in cui non possa entrare ognuno quando voglia. In quanto al vettovagliamento di cui abbisognano uomini di guerra, temperanti e valorosi, lo debbono ricevere dagli altri concittadini con opportuna somministrazione, quale mercede della loro opera di custodi, e dovrà essere in quantità sufficiente, in modo che per tutto l'anno non ne avanzi, ma nemmeno ne venga a mancare. Inoltre, frequenteranno i banchetti in comune e passeranno la vita pure in comune, come fossero in servizio vero e proprio. In quanto poi alle monete d'oro e d'argento, diremo che detengono nell'anima oro e argento di natura divina, sempre, e che perciò non hanno bisogno dell'oro e dell'argento che usano gli uomini. Diremo che sarebbe empia cosa contaminare il possesso di quel divino oro commischiandovi il possesso dell'oro umano. In realtà, innumerevoli misfatti e sacrileggi sono avvenuti a causa di quella volgare moneta. Il prezioso metallo che esiste in loro, quello è immacolato. Diremo che solo ad essi, tra i cittadini della nostra città, non si concede maneggiare o toccare moneta d'oro o d'argento. Così pure non si concede frequentar dimora dove sia argento oppure oro, non fregiarsi con l'ornamento di questi metalli. Non è concesso bere da tazze d'argento o d'oro. Diremo che soltanto così potranno salvare se stessi e potranno salvare la città. Quando invece entreranno in possesso di terra propria, di case oppure di moneta, diventeranno allora persone atte alla finanza e all'amministrazione, agricoltori anziché custodi, padroni e nemici, invece che alleati dei concittadini. Odieranno quindi e saranno odiati. Tenderanno insidie e insidie saranno tese a loro e così trascorreranno la vita intera. E avranno in terrore, assai più e più sovente, i concittadini di dentro che i nemici di fuori. E la rotta sfiorerà allora prossima rovina, per essi e per il resto della città. Queste e per questi motivi saranno le disposizioni sulle dimore dei custodi e sugli altri aspetti della loro vita. E in tal senso proporremo una legge. O non credi? Non vi è dubbio, concluse Glaucone.